Fabrizio Intonti. Allora, cambiare vita è difficile, questo l'abbiamo capito, non c'è uno che ci abbia detto cambiare vita è un attimo, è facile, non ci vuole nulla, no? Bisogna rinunciare a tante cose, ricominciare da capo, inventarsi, spostarsi, ripartire, salutare, non tornare, insomma, però almeno c'è una cosa, cambi vita una volta. È fatta, stai a posto, poi stai bello tranquillo perché poi ti sei anche tolto il pensiero, no? Hai cambiato vita, hai risolto e stai lì fermo, no? La pensavo pure io così, cioè io ero convinto che cambio di vita è una cosa di quelle che le fai una volta e non le fai più. Però in due mesi di programma ci sono arrivate delle telefonate, dei messaggi, dei commenti che hanno cominciato a farci capire una cosa, che uno cambiando vita ci prende gusto, è fatto una volta il cambio di vita, ti sembra anche un po' meno complicato, cioè come dire vabbè ma ci sono riuscito una volta, che non ci riesco la seconda, e comincia ad essere un giro e rigiro, un cambio e ricambio, almeno così ci è sembrato e oggi lo andiamo a verificare. Oggi parliamo di persone che la vita l'hanno cambiata una, due, tre, quattro volte. Se avete cambiato tutto ma lo state per fare o l'avete già rifatto, chiamateci 800 24 00 24. C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miserie, di sofferenze, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. Seems like... E quindi questo è il senso della vita per Woody Allen e per me anche un po' il senso del giro di vita. È difficile, è complicato, spaventa, chissà cosa ci vuole per farlo, e però ne vorresti fare sempre altri. Benvenuti, buon pomeriggio, io sono Achille Corea, questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno su Radio 24 vi racconta e raccoglie storie di persone che hanno cambiato vita. Se volete parlare con noi, raccontarci della vita che avete cambiato e che magari ancora non vi basta, o della vita che avete cambiato più e più volte, 800 24 00 24, oppure commenti se siete adepti del popolare social network Facebook a facebook.com/girodivita. Noi cominciamo come facciamo sempre, come facciamo tutti i giorni, dalla storia di qualcuno che ha fatto veramente le cose di cui parliamo, e oggi siamo al telefono con Yuri Pellegrini. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Yuri, 35 anni? Sbaglio? Sì, 35 anni, sì. E esatto. Prima professione? Beh, la prima professione è stata il calciatore professionista, l'ho fatto una 10-12 anni e un bel giorno mi sono stufato e con un po' di coraggio ho lasciato stare tutto. Ecco, cominciamo a chiarire una cosa, perché il calciatore è quel classico mestiere che ti permette dopo di fare altre cose, perché magari, che ne so, hai guadagnato 10 milioni di euro e apri una catena di ristoranti, insomma, per dire una cosa a caso. Non stiamo parlando proprio di quello, tu fino a che punto sei arrivato nella tua carriera? Ma ho fatto una carriera di Serie C, quindi guadagnavo bene, non milioni di euro, però insomma giocando a calcio si guadagna abbastanza bene, ecco, quindi. Sei arrivato anche in B, mi sembra. Sono di arrivato letto. Anche in Serie B all'inizio della mia carriera, poi una dignitosa carriera di Serie C da arcigno difensore. Da arcigno difensore, sì, esatto. Senti, però a quanti anni hai smesso? Perché quello mi interessa. Ma io ho smesso molto presto, ho smesso a 29 anni e a dire la verità avevo altri anni di contratto, quindi avevo decisamente la possibilità di continuare, ma a un certo punto ho pensato che nella vita c'erano altre cose interessanti da fare, e quindi ho detto, beh, perché no? Lasciamo stare il calcio, e con un po' di coraggio da un giorno all'altro ho preso la decisione di cambiare decisamente la mia vita, ecco. Io chiedo spesso che reazioni hanno avuto le persone intorno a chi ha cambiato vita, perché uno lascia una carriera sicura, eccetera. Tu hai lasciato uno dei lavori più ambiti e più sognati, il calciatore professionista, quello che per mestiere gioca a pallone. Cioè, che cosa ti hanno detto? Beh, devo dire che all'inizio mi hanno preso tutti per matto. Ma la cosa interessante è che comunque adesso sono passati 6 anni, dopo 6 anni penso che la gente abbia un po' cambiato idea, nel senso che vede una persona che sta bene con se stessa, molto contenta della propria vita, quindi alla fine questo è quello che conta, no? Nel senso che chiaramente all'inizio i giudizi degli altri possono essere diversi dalle tue aspettative, però poi alla fine le cose si risolvono sempre, insomma, se la gente ti vede che stai bene. Qual è la cosa che non ti piaceva? Qual è la cosa che ti ha spinto a cambiare? Eri titolare, rassicuraci, eri titolare, giocavi bene, andavi d'accordo con tutti. Ero in super forma, sì. La cosa che non mi piaceva è che sei... Come dicevo anche prima, voi non è tutto oro quello che luccica, no? Nel senso che a me piace molto lo sport in generale, ma poi quando lo vivi come professione ci sono anche dei lati negativi. Probabilmente uno dei lati negativi del calcio è quello che non puoi pensare con la tua testa, no? Sei sempre, vivi di cliché, di stereotipi e fai parte di un sistema che da solo non puoi cambiare, e quindi o ci stai bene dentro o sennò è molto difficile conviverci. Ecco, questo è quello che ho vissuto io in prima persona. Cosa sei andato a fare quando hai lasciato, se non sbaglio, il Vis Pesaro in C1? La Fermana, ero a Fermo, dopo 2 anni a Pesaro sono andato a Fermo, e poi a gennaio, era il 27 gennaio del 2004, sono andato in sede dal presidente e gli ho detto: guardi, io non c'ho più voglia, me ne vado. E che cosa sei andato a fare? Beh, all'inizio ho lavorato in dei ristoranti macrobiotici per un paio di anni in Italia, e poi con degli amici sono andato in Francia e ho aperto un mio ristorante con i risparmi del calcio. Ma tu lavoravi nel ristorante, cioè eri proprio un cuoco, cosa? Sì, ho iniziato dal basso, quindi pulizie, lavaggio verdure, poi piano piano ho iniziato a cucinare, poi ho imparato a cucinare, ho fatto il cuoco, ho gestito anche alcuni ristoranti qua in Italia. Poi quando ho imparato un po' il mestiere con due cari amici ho deciso di andare in Francia, perché uno di questi amici era francese, e niente, siamo andati a Strasburgo, aprire un ristorante a Strasburgo che è tuttora aperto, ma nel quale io, nonostante sia socio, non lavoro più, perché comunque anche là ho cambiato nuovamente, mi sono accorto che la professione di ristoratore non è proprio quella che mi confà, ecco, perché diciamo. Cosa non andava nella professione di ristoratore? Ma alla fine è un lavoro molto impegnativo, nel senso che sei obbligato a stare chiuso in una cucina per tantissime ore alla settimana, e io ero abituato a tutt'altra vita, quindi aria aperta, sport, movimento. E quindi cosa sei andato a fare? E quindi dopo Strasburgo e ristorante sono andato 6 mesi sempre in Francia, in montagna, a fare il tagliaboschi, 6 mesi. Ma mi sembra che tu sia andato a cercare una serie di carriere sempre meno attraenti per la vita sociale e per, diciamo, per il sentire comune. Ma devo dire che ogni carriera, tra virgolette, ha avuto dei risvolti molto interessanti. Per esempio fare il tagliaboschi è molto bello, stai nella natura, ti mantieni in forma, tra virgolette, poi comunque è un lavoro che mi è piaciuto molto. Scusami, diciamo. Yuri, ma io, quando tu eri lì che facevi la gavetta e lavavi le verdure, o eri lì che spaccavi la legna da solo nei boschi della Francia, non ci pensavi mai a tipo: ah, io stavo lì in campo e la gente pagava per venire a tifare me e a sostenermi, chi me l'ha fatto fare? Ma devo dire che la scelta di lasciare il calcio non mi è sempre, cioè non rinnego questa scelta, e quindi no, devo dire la verità, no. Non l'ho. Cosa fai adesso? Beh, ora sono rientrato sempre nel mondo del calcio, però dall'altra sponda sto facendo l'allenatore, gestisco il settore di giovanile di una società dilettantistica nella mia provincia, e la cosa mi affascina molto. Pensi che sarà la strada definitiva? Ma non lo so, per il momento si va avanti di anno in anno, quindi fino a giugno sicuramente è questo la mia professione sarà questa, poi vediamo, insomma. Io cerco di fare tutto quello che faccio, cerco di farlo nel miglior modo possibile, poi quello che mi riserva la vita non lo so, insomma. Senti, curiosità, tu hai una famiglia, moglie che ti porti in questi cambi di vita, o hai sempre fatto tutto da solo? Ma diciamo che sono stato accompagnato da una ragazza che mi sopporta, tra virgolette. Ma ti aveva conosciuto quando eri calciatore? No, non mi aveva conosciuto quando ero calciatore. Sto pensando a delle veline che si mettono con dei calciatori, e poi quello dice: vabbè, andiamo a fare lo spaccalegna nei boschi della Francia. Questo non so se potrebbe avvenire, questa ecco. Cosa. Va bene, Yuri, senti, ti ringrazio, ti chiediamo l'ultima cosa. la valigia e la zavorra. Yuri, cosa ti sei portato dietro da una vita all'altra? Qual è stata la tua, la cosa che hai messo sempre in valigia? Ma qualche buon libro ho messo in valigia, qualche buon libro che mi sono portato in tutti gli appartamenti, in tutte le stanze, in tutti i letti, in tutti i posti dove sono stato. E lo stiamo prendendo a martellate, lo stereotipo del calciatore, cioè. Beh, no, sono contento. E che cos'è che hai buttato? Ma ho buttato soprattutto i giudizi delle persone, le aspettative delle persone, perché ognuno penso deve fare la propria vita e non regolarsi su quello che si aspettano, che gli altri si aspettano da lui, ecco, quindi penso che questo non va bene. I giudizi e le aspettative degli altri non devono condizionarci. Non devono, diciamo, condizionarci, sì. Va bene, grazie Yuri per averci raccontato tutti i tuoi giri di vita. Controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato se vi sentite persi quando al supermercato non trovate la solita cassiera. Raccontate soddisfatti agli amici che la vostra automobile saprebbe tornare a casa da sola. Preferite camminare sui carboni ardenti piuttosto che fare un biglietto sola andata. Quando dite agli amici «andiamo in pizzeria», loro sanno esattamente in quale. Non vi serve Facebook. I vostri compagni di scuola vi trovano allo stesso telefono fisso di 30 anni fa. E chissà gli abitudinari, io un pochino mi ci metto anche tra gli abitudinari, anche se anch'io ho cambiato un po' di cose, un po' di lavori e tutto quanto, però chissà gli abitudinari cosa pensano quando sentono uno che non solo ha cambiato una volta vita, ma l'ha cambiata 2, 3, 4 volte, vado di qua e vado di là, è pazzo, lo ammiro, è un eroe, vorrei farlo anch'io. 800240024, ditecelo e raccontatecelo. E io intanto sto leggendo anche dei messaggi su Facebook interessanti, tipo come quello di Anna Rita che dice che abbiamo anche provato ad emigrare in Venezuela, negli Stati Uniti, e adesso siamo in campagna con 2 ettari di terra. Vedi, insomma, si fanno vari cambiamenti. Umberto, pronto? Sì, pronto, ciao. Umberto, buon pomeriggio a te, benvenuto. Quante vite hai cambiato? Se per vite si intende lavori, parecchi, e non è ancora finita. Fisicamente fuori dall'Italia, 2. 2? Cioè, tu sei partito dall'Italia per andare dove? La prima a Santo Domingo, la seconda in Sudafrica e la terza all'Inghilterra. 3 quindi? Cioè, la terza deve ancora arrivare? Non è ancora arrivata. Ah, ci stai pensando. È pianificata, però non è ancora realizzabile al momento. Quanti anni hai, Umberto? 57. 57, no, perché poi a volte uno pensa che questi cambiamenti avvengano solo a 20-30 anni o poi il treno passa, invece noi abbiamo visto che il treno uno se vuole lo fa ripassare. Quando sei partito per la Repubblica Dominicana, il Sudafrica, per fare cose, soprattutto pensavi di rimanerci, pensavi che quella sarebbe stata la vita? Bene, sì, io sono andato via dall'Italia per un po' lo stress del traffico, stress del lavoro, stress di tutto. E niente, ho deciso di andare in quest'isola, ho aperto un bar, non ero sprovveduto perché ho fatto il cameriere, ho fatto il disc jockey, quindi non andavo, diciamo, con gli occhiali da sole molto scuri, e sinceramente la prima esperienza è stata più che positiva, la seconda anche, e spero che sia così anche la terza. Ma che cos'è che ti fa, perché uno, cioè, beh, come dicevo all'inizio, cioè, cos'è che ti fa decidere che però quel cambiamento non è quello definitivo? Perché? Cioè, perché uno potrebbe pensare che ci sia un'insoddisfazione di fondo e quindi non ti fermerai mai. No, sinceramente no, io no, ecco, diciamo che non ho legami stretti con la terra, cioè io sono della Bergamasca, ho 10 fratelli, stiamo bene tra di noi, tutti sposati, tutto a posto, però cercare uno stimolo, altrimenti diventa noia, altrimenti diventa, si lascia un po' sedere, no? E scusa, invece legami con la terra no, però legami affettivi che ti potrebbero complicare questi trasferimenti? Beh, sinceramente no, io sono sposato, ho 2 figli, sono sposato da 30 anni, per cui ho 2 figli. Diciamo che il legame affettivo sarebbe poi i familiari, però telefono e internet ti mettono in contatto in qualsiasi momento, per cui è come se tu fossi fuori dalla porta. insomma, dice approfittiamone di queste tecnologie. Va bene Umberto, io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per anche il prossimo cambio in Inghilterra. E noi abbiamo ricevuto anche dei messaggi, delle telefonate nella segreteria telefonica, e ad esempio abbiamo ricevuto una bella email da Giulia che ci raccontava la sua vita in movimento. Giulia, pronto? Eccomi, sono qua. Giulia, dove sei? Adesso sono a Dubai in questo momento, ma sono appena arrivata da New York perché vivo tra un posto e l'altro. Cosa fai? Cioè, noi abbiamo letto la mail, però dì ai nostri ascoltatori, cosa fai per vivere tra New York, Dubai, eccetera? Io sono un interior designer che ultimamente si è occupata di eventi, perché ormai gli eventi sono così complessi che vengono affrontati come un progetto, e nell'ultimo anno mi sono trasformata anche in quelli che gli americani chiamano lifestyle writer, perché ho scritto un libro che doveva essere solo un supporto al mio business e che invece sta diventando un interesse principale nella mia vita, insieme a delle altre società che sto aprendo per pubblicare poi eventualmente forse anche una rivista. Quindi la vita e il destino mi stanno spingendo non soltanto in diversi paesi ma anche verso differenti professioni. Cosa fa una lifestyle writer? La lifestyle writer scrive dei libri specifici su un argomento, nel mio caso ovviamente era l'organizzazione, in questo caso il wedding planning specificamente, però comunque l'organizzazione di eventi, e si chiama i famosi coffee table books, che sono quelli che poi vengono mostrati sui tavoli delle signore quando bevono il caffè. Ecco, e una cosa che io non mi chiedo, perché poi mi dite spesso, il destino mi porta, cioè sembra quasi c'è una persona in balia, cioè tira un'onda e io surfo, no, c'è una programmazione. Tu li hai scelti questi posti? Assolutamente, io sono convintissima che alla base di tutto ci sia sicuramente una buona dose di coraggio per lasciare una strada conosciuta e intraprenderne una nuova, un pizzico di follia perché è necessario, altrimenti si diventa addirittura noiosi con se stessi e con gli altri, ma soprattutto molta disciplina e organizzazione, perché l'unico modo per farlo, io poi mi muovo con la famiglia e quindi questo per me è fondamentale, assolutamente non si può lasciare le cose al caso. Indubbiamente quando si prova però una strada è anche vero che ci si pone in una condizione di conoscere persone, trovarsi in alcune situazioni che altrimenti non si sarebbero potute presentare stando probabilmente a casa propria per 30 anni, e quindi per questo io intendo che il destino comunque ti può spingere da una parte o dall'altra, poi siamo sempre noi che ci costruiamo la vita e dobbiamo farla esattamente come ci piace. Ma per te casa dov'è? Natale. Per me sono tante case. Natale dove lo passi? Ma Natale cambio, quest'anno per esempio abbiamo deciso che Natale sarà un White Christmas a New York, l'anno scorso è stato a Dubai, l'importante è avere vicino gli affetti, e quindi a parte la mia famiglia, anche la mia famiglia di origine che è come me, io probabilmente sono stata geneticamente modificata per essere così inquieta, e quindi comunque i miei genitori viaggiano anche più di me, ci dobbiamo mettere d'accordo per trovarci da qualche parte. E poi il Natale precedente ancora era stato a Miami, quindi per noi l'importante è essere tutti insieme. Poi mantengo comunque vite parallele, ecco, questa forse è la differenza rispetto ad altri. Io non vivo una vita, la chiudo e poi mi trasferisco da un'altra parte. Io in questo momento sto mantenendo vite parallele in 3 paesi differenti. Quindi ovunque vado mi sento a casa, perché comunque ho le mie cose, ho gli amici, ho comunque il lavoro, e quindi ovviamente questo aiuta. Scusa, tu hai figli? 2 bambine, sì, di 7 e 4 anni. E loro dove stanno? Si spostano? Oh no, ovviamente adesso che abbiamo la scuola per la bambina più grande bisogna fare gli spostamenti mirati anche in base a quelli che sono i suoi periodi scolastici di vacanza, però comunque l'anno scorso sono state con me a New York, e mio marito ha pendolato con Dubai, e quest'anno invece siamo basati principalmente a Dubai e pendoleremo tutti con New York, quindi facciamo il contrario, l'anno prossimo non lo so ancora. Ma i tuoi figli parlano, le tue bambine parlano in inglese, parlano in che lingua? Guarda, per loro la lingua principale, quella che loro sentono come lingua madre, è l'inglese. Poi ovviamente parlano italiano, però sono a Dubai, è un posto di expatriate, quindi hanno seguito un curriculum internazionale, parlano francese e un pochino di arabo. Quindi io guarda, voglio rifare questo programma tra 15 anni per vedere dove vivranno le tue figlie. Va bene Giulia, ti ringrazio per averci raccontato anche la tua storia. Nicola, pronto? Pronto, buongiorno. Ecco, dove sei? Sei già in giro di vita perché sento un vento. Dove sì, sei? Adesso sono in questo furgone che sto trasportando degli autoricambi. E il tuo cambio di vita? Il mio giro di vita è stato più di uno, voglio dire. Io sono partito che ero un operaio, un magazziniere, 5 anni. Precedentemente avevo un negozio con mio fratello di orologeria, infatti io sono tecnico orologiaio, e crescendo, facendo, non, mi era un po' stretta tutta la situazione. Ma senti, premetto, io sono molto più piccolo di tutti gli altri. Quanti anni hai? 37. Dimmi una cosa, ma basta cambiare lavoro per cambiare vita? Quando tu cambi attività ti senti una persona diversa, ti realizzi? Ma il mio modo di vedere il cambiamento di vita è aggiungere molto più tempo alla famiglia, nel senso che il lavoro sì, va bene, però vedere, io facevo la guardia giurata anche e mi toglieva tutto il tempo, tu lavoravi 14-16 ore al giorno. E quindi per te adesso io ho iniziato a giocare con mio figlio a 4 anni. Ah, per te adesso è una questione di tempo, di qualità della vita. Sì, dedicarsi più alla famiglia, ovviamente, guadagnare il cercare di guadagnare il dovuto per soddisfare anche le tue esigenze. Ma adesso ti fermi? No, calma. No, sono in cerca di altro, anche perché di un altro parallelo, diciamo così, perché io adesso ho preso due appalti di e quindi hai già un progetto, ho capito. Vorrei chiudere con Gustavo, pronto? Oh, salve, ecco. Buonasera, benvenuto, il tuo cambio di vita. Il cambio di vita inizia, sono argentino, inizia nel 2000 con il primo viaggio verso Tenerife e sto un paio di mesi lavorando e qua non mi trovo un amico, mi dice andiamo in Italia. E venivo in Italia. Ma venivo in Italia a fare che? Ecco, questa è la domanda. A fare, te dico la verità, all'inizio il primo lavoro che trovo è come giardiniero. Ho iniziato a lavorare come giardiniero, di qua e là, poi conosco gente, voilà, e fino a mo' che sto a lavorare in un posto benino, lavoro in una tipografia farmaceutica, però ho imparato mestieri che prima non lo sapevo fare. Però in questi 10 anni è andato 5 volte all'Argentina, sto un anno, 2 anni qua, e poi mi prende la nostalgia, ritorno là. Quando sto là, sto lavorando e devo ritornare qua. E mo adesso mi prende cada 3-4 anni un qualcosa dentro che mi dice devo cambiare vita. Questo è la saudade, la saudade andata e ritorno, anche se la saudade è brasiliana, anche gli argentini, anche un po' tutti, dai, possiamo avere questa forma di nostalgia che ci porta un po' qua, un po' là. Ringrazio Gustavo, tra l'altro noi domani vogliamo fare proprio una puntata sugli stranieri che cambiano vita verso l'Italia, quindi chiamateci, prenotatevi, come si dice in questo caso, a giro di vita, @radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti e tutti voi, ci sentiamo domani, ciao! Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.